English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Nessuno è indispensabile. Iniziamo con questa affermazione la nostra puntata di English 24, una massima di vita fondamentale che ha qualche eccezione. Cosa rende un uomo indispensabile? Se lo chiede un articolo del New York Times ripreso dal nostro English 24 in edicola, subito un estratto dal CD. Indispensable? No one is, we're told. Times change. People move on and the notion of the irreplaceable individual is a myth. That is irrefutable, at least in the cosmic sense of Charles de Gaulle's grim reminder, the cemeteries of the world are full of indispensable men. Yet there are moments in history or institutions that are so shaped by the extraordinary contributions of a single person that it's hard to imagine one without the other. So the indispensable man debate was fueled anew last week when Stephen P. Jobs said he was taking a leave of absence from Apple until July because his health problems were more complicated than he first thought. What is it then that makes someone a candidate for the cloak of indispensability? Allora, ce l'hanno sempre detto, fin da quando eravamo bambini, nessuno è indispensabile. E così parte anche questo servizio del New York Times, Giulia. Sì, no one is, nessuno è indispensabile, we are told, cioè ci viene detto. In inglese si può usare questo passivo del siamo detti, nel senso ci è stato detto. E la cosa divertente è che viene citato una frase super citata, una frase di Charles de Gaulle, che diceva "The cemeteries of the world are full of indispensable men, naturalmente non women", cioè che i cimiteri, lo diciamo anche in italiano, sono pieni di persone indispensabili. That is irrefutable. È inconfutabile, diremmo noi. È una verità. Perché? Perché times change and people move on. Quindi tutte le cose cambiano, perciò per l'appunto ci sono le cose che restano e quelle che cambiano e le persone non sono mai indispensabili. Allora, l'abbiamo sentito, i cimiteri sono pieni di persone indispensabili e pure nella storia non è sempre così, perché degli esempi di persone sicuramente più indispensabili dei comuni mortali ci sono. Ecco, questo modo così diretto di dire pure, noi diciamo eppure, sei lettere, sette lettere, no sei, e invece in inglese yet. Ed è molto, appunto, è un'interiezione che in generale si mette all'inizio della frase, e quindi eppure there are moments in history or institutions, quindi ci sono dei momenti nella storia delle persone oppure delle istituzioni che ci sono, appunto, fanno riferimento a una singola figura. Una singola figura, abbiamo un esempio, ci chiediamo se è indispensabile la figura di quest'uomo che è molto famoso e che sentiremo parlare tra poco, che è Stephen P. Jobs. Questo è il nome per intero di Steve Jobs. Nell'articolo si dice che questo dibattito was fueled anew, quindi to be fueled anew è stato di nuovo, to fuel naturalmente è il carburante, quindi gli è stato dato un nuovo impulso, quindi da questa vicenda di Stephen P. Jobs, meglio noto come Steve Jobs. Lui aveva detto che sarebbe rimasto comunque alla guida di Apple, il colosso che lui ha cofondato, però poi è successo qualcosa, forse questi problemi di salute di cui tanto poi si malignava, insomma c'erano tante indiscrezioni che non sono mai state confermate del tutto. Certo che a un certo punto questi problemi di salute erano peggiori di quanto lui potesse aver pensato all'inizio. More complicated than he first thought. Qui notiamo naturalmente che essendo complicated un aggettivo molto lungo non si può fare il maggiorativo con aggiungendo le R, bisogna mettere more prima, quindi nice diventa nicer ma complicated diventa more complicated. Cloak of indispensability, difficilissimo da dire. Quindi questo cloak, questa aura di indispensabilità, eccoci di nuovo a parlarne, perché appunto Steve Jobs è indispensabile o no per la sua Apple? Beh, allora facciamo la conoscenza di Steve Jobs, personaggio molto molto molto interessante. Abbiamo scelto due brani di un discorso decisamente bello, peraltro, che tenne nel 2005 ai neolaureati dell'Università di Stanford. Lui che non è nemmeno laureato, sentiamo. Truth be told, I never graduated from college. This is the closest I've ever gotten to a college graduation. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set, except that when I popped out, they decided at the last minute

applicazione pratica. All'epoca almeno lui pensava così. 10 years later, 10 anni dopo, però, it all came back to me. Tutto gli è tornato indietro perché lui spiega, nel momento in cui ha fatto il suo primo Mac, ha capito l'importanza della ricchezza grafica, della veste grafica, grazie a questi studi di calligrafia. Conclude che ci sono dei punti che si collegano. Connect the dots looking forward, cioè se tu hai solo i puntini e devi capire come connetterli, non puoi, ma dopo che hai fatto le cose capisci che tutto aveva un suo senso. Certo è che lui è una figura molto affascinante. Per leggere qualcosa su di lui vi rimandiamo ancora al nostro English 24 in edicola. Il nostro tempo per questo sabato si conclude qui. Ringrazio Giorgio Matè in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.